Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Ancora una volta è la Grecia al centro della cronaca finanziaria internazionale e di questa nuova puntata di Economia in Europa. Mentre il Fondo Monetario Internazionale ha ribadito il proprio sostegno al paese, il commissario agli affari monetari ed economici dell'Unione Europea, Olli Rehn, continua ad esercitare pressione sulle forze politiche greche affinché prevalga il senso di forte responsabilità nazionale. In particolare per il salvataggio della Grecia ci sarà un intervento in due tempi. Domenica prossima bisognerà dare il via libera alla tranche da 12 miliardi. L'11 luglio invece si dovrà decidere sulla partecipazione dei privati al secondo intervento d'aiuto. È quanto ha dichiarato il commissario dell'Unione Olli Rehn lanciando un appello ai 27 per superare le attuali divisioni. Nel frattempo è stato registrato l'ennesimo record del rischio default della Grecia, con i credit default swaps che superano per la prima volta la soglia dei 2000 punti. I CDS hanno registrato una impennata di 280 punti base, toccando il nuovo massimo storico di 2050 punti. E si registra un ulteriore massimo anche per il rendimento dei titoli di Stato ellenici, che sulla scadenza a due anni ha superato il 30%. Il commento di Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Quando si parla di crisi di questo tipo, è sempre una crisi che da bancaria o di tipo economico finanziario diventa una crisi di debito. Nel momento in cui tu hai un problema come quello greco, che è un problema di debito di bond, questi titoli di Stato sono andati a essere comperati da chi? Da banche europee, da fondi di investimento, addirittura dalla stessa previdenza greca. Molte di queste banche sono proprio le banche europee. Ecco perché quando si parla di salvare la Grecia, in realtà si tratta di parlare di salvare le banche europee, che hanno trovato che i tassi di interessi greci, non a caso, erano quelli migliori. Allora, a questo punto che cosa si fa? La Germania cerca di dire no, noi non vi salviamo perché il contribuente tedesco è arrabbiato e quindi poi ci penalizzerà. Allora cosa fanno? Cercano di rendere la pillola più semplice, dicendo bisogna coinvolgere i privati. Come? Nel momento in cui tu coinvolgi volontariamente i privati è una cosa assurda ed ecco che le agenzie di rating ti tornano e ti dicono stai facendo default. Tu fai continui compromessi, rinvii, così come accadde un anno fa, vi ricordate? Ci fu un rinvio dietro un rinvio, certo. E alla fine si dovette pagare molto di più. L'Unione Europea è determinatissima ad appoggiare la ristrutturazione della Grecia e la situazione ha delle dimensioni tali da essere gestita. Questo è il parere del consigliere delegato di Intesa San Paolo, Corrado Passera. Sentiamolo. La Grecia è una situazione ancora da prendere in mano e definire. Molto naturalmente tocca al governo greco che deve fare un lavoro come altri paesi, noi compresi in altre fasi della vita abbiamo fatto. È una cosa ovviamente alla loro portata, ci vuole la collaborazione dell'Europa, ma mi sembra che l'Europa sia determinatissima ad appoggiare la ristrutturazione e il risanamento del paese. La situazione rischia di diventare drammatica per i mercati però. Secondo me è una cosa che si può gestire, ha le dimensioni per essere assolutamente gestita. Rischio Grecia, ma non solo. Secondo alcuni dati sui fattori di rischio nei vari paesi europei elaborati dalla società di consulenza Bain & Company, si delinea una mappa del rischio che, al di là ovviamente della Grecia, vede un Portogallo con una situazione finanziaria fotocopia di quella irlandese, con bolla immobiliare ed eccesso di credito bancario, una Spagna con istituti di credito più equilibrati ma a sua volta a rischio crollo del mattone, un'Italia con banche sane ma sottoposte al rischio di un peggioramento del rating sul paese. Il commento di Moria Longo, giornalista del Sole 24 Ore. Emerge che ci sono alcuni paesi, diciamo, non è una scoperta, ma emerge in maniera chiara che ci sono alcuni paesi che hanno un enorme problema bancario. Il primo è l'Irlanda, si sa questo. In Irlanda c'è stata una crescita del mercato immobiliare tra il 2000 e il 2007, quindi prima della crisi, di 2,1 volte più veloce rispetto alla crescita del PIL. Questo ha portato le banche a esporsi enormemente verso il credito immobiliare, tanto che le banche hanno un rapporto tra i crediti totali erogati e i depositi, che sono invece quelli che loro incassano, del 215%. Si pensi che il Fondo Monetario considera una cifra equilibrata il 110%, quindi diciamo 215 è più del doppio di quello che sarebbe consigliabile. Questo cosa è successo? Che nel momento in cui il mercato immobiliare ha iniziato a scendere, le banche hanno iniziato ad avere grossissime perdite, hanno dovuto avere necessità di nuovi capitali, quindi lo Stato ha dovuto intervenire dando capitale alle banche, hanno dovuto vendere gli immobili pignorati ai cittadini e questo ha aumentato ulteriormente le perdite perché il mercato immobiliare è sceso ancora di più, tant'è vero che ad oggi, dall'inizio della crisi, gli immobili commerciali hanno perso il 60% del valore e quelli residenziali il 34%. Questo ha creato un avvitamento della crisi che ha portato le banche... Dove, scusa, del 64%? Gli immobili commerciali in Irlanda sono calati come prezzo del 60%, quelli residenziali del 34%. Questo ha portato a un avvitamento della crisi, continue perdite e continua necessità di capitale che ha inguaiato lo Stato, perché è lo Stato che ha dovuto ricapitalizzare le banche. Ogni volta che le ricapitalizzava non bastava mai e probabilmente non basta neanche adesso. Tant'è vero che addirittura si parla, ormai tanti sostengono che alcune banche irlandesi siano direzionate verso il default. Questo ha creato un grossissimo problema, a prescindere da quello che è successo in Grecia. Se si vanno a vedere gli altri paesi, per esempio il Portogallo, questi sono dati che ha calcolato Bain, si scopre che il Portogallo ha una situazione molto simile, il mercato immobiliare è cresciuto in maniera sproporzionata come in Irlanda, le banche hanno erogato credito in maniera sproporzionata e quindi è una situazione analoga, non c'è stata ancora la crisi bancaria come quella in Irlanda e in Portogallo, ma poco ci manca. La Spagna è messa un po' meglio, l'Italia è messa decisamente meglio dal punto di vista bancario, ma peggio dal punto di vista del settore pubblico. Tutti sappiamo il nostro debito pubblico quanto è elevato, il 120%. Sì, nella vostra tabella l'Italia si colloca, io pensavo anche peggio, si dirà tutto, però si colloca in un livello intermedio, diciamo, no? Sì, perché ha un sistema bancario tuttora solido. Il problema qual è però? Il problema dell'Italia è più simile a quello che sta vivendo la Grecia rispetto a quello che sta vivendo l'Irlanda, ovviamente prendendo tutto con le pinze, nel senso che in Grecia cosa è successo? Il sistema bancario era solido, il sistema statale era completamente al dissesto, come dicevi tu prima. Questo ha provocato appunto un problema enorme per lo Stato a rifinanziarsi, tant'è vero che i rendimenti di titoli di Stato sono oltre il 20% e questo si è riversato sul sistema bancario. In Italia cosa potrebbe succedere se per esempio la Grecia andasse in default o se Standard & Poor's declassasse il rating dell'Italia? Aumenterebbe il costo del debito non solo per l'Italia come Stato ma anche per le banche che italiane sono. Per cui questo provocherebbe un aumento del costo e se il costo del debito sale troppo oltre a certi livelli a un certo punto diventa insostenibile anche per i più sani. Nel frattempo la Commissione economico-finanziaria del Parlamento europeo ha approvato con 33 voti a favore, 2 contrari e 4 astensioni la candidatura di Mario Draghi alla presidenza della BCE. La raccomandazione è diretta alla plenaria del Parlamento che dovrà esprimere il suo giudizio definitivo giovedì 23 giugno, alla vigilia del Consiglio europeo che sancirà la definitiva nomina dell'attuale governatore della Banca d'Italia. Intanto, la Banca Centrale Europea, riunitasi la scorsa settimana, ha confermato la propria politica monetaria. Come nelle attese, l'Istituto di Francoforte non ha modificato i tassi di interesse, mantenendoli all'1,25%. Tuttavia, il presidente Jean-Claude Trichet non ha escluso un aumento nei tassi nella prossima riunione, in programma per il 7 luglio. Sentiamo. The Governing Council decided to keep the key ECB interest rates unchanged. Il consiglio direttivo della BCE ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati. Considerando le informazioni disponibili, continuiamo a vedere pressioni al rialzo sull'inflazione, prevalentemente legate ai rincari dei prezzi energetici e delle materie prime. I dati giunti di recente confermano lo slancio positivo della ripresa economica nell'area euro, su cui tuttavia l'incertezza resta elevata. I rischi sul fronte della stabilità dei prezzi sono in aumento. Di conseguenza, pensiamo che sia giustificata una forte vigilanza. Detto ciò, agiremo in modo fermo e determinato. Faremo tutto il necessario per prevenire ulteriori sviluppi sui prezzi che spianerebbero la strada a un aumento delle pressioni inflazionistiche. Rimaniamo determinati ad assicurare che le attese circa l'inflazione rimangano ancorate in linea con il nostro obiettivo di mantenerla al di sotto o vicina al 2% nel medio termine. La decisione di oggi sui tassi è stata presa all'unanimità. Circa le indicazioni che avrei dato pronunciando alcune parole, tra cui la nostra posizione di forte vigilanza, dico che significa che siamo in una modalità in cui potrebbe essere deciso un aumento dei tassi il mese prossimo, anche se non ci chiudiamo mai in decisioni precostituite. Anche gli osservatori internazionali più autorevoli forniscono proiezioni differenziate per quanto riguarda l'inflazione attesa in Europa nei prossimi anni. L'ultimo outlook del Fondo Monetario Internazionale parla di un tasso al 3,8% per il 2011. Tutti gli altri danno invece cifre molto più contenute. Il parere di Angelo Drusiani, responsabile gestioni Banca Albertini SIS. Generalmente la previsione di un'inflazione che salga al di sotto del 3%, quindi che possa arrivare a un 2,7, 2,8, come adesso, 2,9 al massimo, non di più. Anche perché, sì, è vero, c'è una ripresa economica in atto in Germania, in Francia, negli altri paesi di area euro molto, molto, molto più moderata, e di conseguenza la propensione ai consumi delle famiglie non è elevata, perché la disoccupazione, il tasso di disoccupazione rimane molto alto. Quindi pensare che ci possa essere un aumento sensibile dell'inflazione è legato solo all'aumento del prezzo del petrolio, però bisogna tenere conto che se la propensione ai consumi rimanesse su livelli molto bassi, pensare che le aziende possano aumentare i prezzi diventa molto difficile. Generalmente dietro all'inflazione, se il fenomeno è buono, si nasconde anche la ripresa economica, per cui non è sempre qualcosa da cui difendersi, qualche volta è un auspicio molto ricercato. Lo era negli anni 90, ricordo nel 92 quando i tassi dei BOT erano 17-18%, l'inflazione era a un livello abbastanza simile. E c'era molta allegria perché incassando delle cedole molto alte si pensava che si potesse spendere in maniera molto più importante. Oggi le cedole, purtroppo, dei titoli le vediamo, sono a livelli molto bassi, tra l'1,5% e il 2,5% per durate brevi. Quindi in tasca ai risparmiatori rimane non tantissimo, di conseguenza è per questo che è ancora peggio l'aspetto, perché la propensione ai consumi già di per sé ha dei problemi in più. Se non c'è quella spinta che arriva dai titoli di Stato, perché il rendimento reale è praticamente nullo, addirittura sotto zero. E anche per questa settimana è tutto per l'economia in Europa. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.